Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Cellule artificiali capaci di catturare l'energia luminosa e convertirla in sostanze chimiche utili ricche di energia. Un primo passo in questa direzione è stato fatto proprio in Italia dal gruppo di ricerca guidato da Fabio Mavelli ed Emiliano Altamura del Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, gruppo che è riuscito a mettere a punto per la prima volta al mondo una sorta, chiamiamola così, di centrale elettrica molecolare rinchiusa in una cellula artificiale adatta a fornire energia appunto alle future cellule sintetiche. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista dell'Accademia di Scienze degli Stati Uniti e rappresenta un passo avanti importante per arrivare alla costruzione in futuro di cellule interamente artificiali. Ne parliamo con uno dei protagonisti, Fabio Mavelli, che è in linea con noi. Buonasera Mavelli. Buonasera a lei e ai radiospettatori. Senta Mavelli, allora ci dica qualcosa di più di questo lavoro, che cosa più precisamente avete creato? Noi siamo in grado di creare, diciamo, delle strutture artificiali, che sono delle vescicole giganti. Che però non sono giganti, ecco, si chiamano giganti, ma in realtà sono di che dimensioni? Sì, sono di dimensioni micrometriche, quindi sono delle dimensioni di cellule che noi utilizziamo appunto per mimare il comportamento delle cellule. E in questo caso siamo riusciti, all'interno della membrana di una di queste strutture, che sono strutture sferiche chiuse, a ricostituire delle proteine che sono state estratte da batteri fotosintetici e che sono in grado di raccogliere la luce e trasformarla in energia chimica come una differenza di acidità fra l'interno e l'esterno della struttura, quindi una differenza di acidità transmembrana. Ok, quindi diciamo che queste vescicole appunto sono delle vescichette molto piccole fatte da una membrana di grassi che simula un po' la membrana cellulare, appunto, no? E all'interno di queste vescicole voi siete riusciti a mettere tutto un armamentario chimico di proteine necessarie a fare questo primo step della fotosintesi, creando una differenza di acidità. Ecco, allora, questa differenza di acidità che cosa serve? A che cosa può servire e quale sarà quindi il prossimo step? Sì, l'idea è continuare appunto su questa strada e ricostituire sempre all'interno di queste strutture, quindi all'interno della membrana di queste strutture, altre proteine, in particolare la ATP sintasi, che è una proteina molto complessa che trasforma questa differenza di acidità e la trasforma in un prodotto che è l'ATP, che è una molecola fondamentale perché è la benzina che fornisce energia a tutti i processi metabolici delle cellule, quindi del batterio. Quindi l'idea è di riuscire a fare delle strutture artificiali che siano in grado di produrre ATP e che magari poi all'interno di queste strutture sia possibile sostenere sintesi di prodotti che possono essere di interesse applicativo. Perfetto, quindi insomma in un certo senso voi è come se aveste imparato, diciamo, ad estrarre il petrolio, adesso il prossimo step sarà quello di fare la centrale elettrica vera e propria, perché vi serve energia elettrica per poi poter fare un po' di tutto. Ecco, quali sono le possibili applicazioni di questi organismi, di queste cellule artificiali che si sta cercando di costruire? Allora, sicuramente, diciamo, le ricadute da un punto di vista diciamo della ricerca in questo ambito è, da un lato, il fatto di riuscire a comprendere meglio il funzionamento delle cellule reali, quindi questo è il primo punto. Noi ci muoviamo in un ambito, diciamo, di ricerca di base, quindi per noi è importante la comprensione e soprattutto la capacità di costruire questi oggetti attualmente. È ovvio che una volta che si capisca meglio il funzionamento e si sia in grado di creare oggetti artificiali che siano programmabili e quindi abbiano dei comportamenti che siano prevedibili e che siano definiti, con questi oggetti si può pensare a questi oggetti come se fossero dei biorobot che quindi possono svolgere anche operazioni molto complesse, dalla sintesi di farmaci, ma anche, per esempio, una ipotesi che c'è in questo ambito, ma è un'ipotesi futuribile ovviamente, è l'idea di veicolare questi organismi all'interno del corpo umano, perché loro potrebbero essere in grado di rilevare la presenza di una patologia e sintetizzare il farmaco che serve. Quindi questo per esempio è una possibilità, ma possono avere anche diciamo, applicazioni in campo biotecnologico, appunto la sintesi comunque di prodotti di utilizzo, biocarburanti. Biocombustibili, certo. Insomma, non ci sono limiti all'immaginazione, però il punto è proprio quello di riuscire a controllarne bene e conoscerne bene il comportamento. Un'altra cosa è ovviamente che questo tipo di strutture permettono anche di dare una risposta a diciamo, l'origine della vita, cioè, certo, nel senso a capire quali sono le condizioni per cui si può osservare una transizione fra materiale non vivente a materiale vivente, quindi diciamo, è un altro, diciamo, un'altra ricaduta, diciamo, di questo tipo di ricerche. Grazie, grazie Mavelli. Arrivederla, grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata a tutti.